verità. Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Americano, but you were born in Italy. You try living a la moda, but when you drink whiskey soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll, you play the baseball. Ma sono di Pecanel, chitarrita, la rappresenta di mamma. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy, don't you know this ain't New York City? Okay, Napoletta, you wanna be America, wanna be America. Questo Pannocchia ha cavalcato questa roba qua. Pannocchia è arrivato a milioni di persone. Mai un'affluenza così c'è stata negli Stati Uniti. Vuol dire che la gente è oltre l'informazione post-datata. Pazzesco! Questa è la deflagrazione di un'epoca, è l'apocalisse dell'informazione, della televisione, dei grandi giornali, degli intellettuali, dei giornalisti. E questo ha fatto un vaffanculo generale, questo qui ha fatto un videi pazzesco. Avessimo avuto un altro Obama in questa campagna presidenziale, probabilmente i democratici avrebbero rivinto. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky sopra, forte senti disturbato. Go Donald go, non so come l'abbiate presa voi, quando l'abbiate saputo, io mi sono fatto una bella notte di cavalcata trionfale, gente normale 3. Poteri forti, 0. Banchieri, finanzieri, massoni, lobbisti, giornalisti, cantanti, attori, nani e ballerine. E il popolo vota liberamente. È un bellissimo messaggio. Adesso avevo in mente di dire una cosa, però non avevo ascoltato questi due audio. Adesso mi dicono che sono Grillino e Salviniano. Porcaccia la miseria, come me li devi far ascoltare prima, Lorenzo Nespoli. Adesso come faccio a dirlo? Che miseria, oracca boia. Vabbè, dai, lo dico lo stesso. Allora, sapete che le cose non me le tengo, se ce le ho in bocca le devo dire. Vabbè, abbiamo un presidente americano sgradevole, antisistema, provocatore, agitatore, scomodo, graffiante, casinista. Va bene così, dai, no? Va bene così, dai, no? Sarà che io sono fatto in un modo particolare, siccome ho un ordine mentale rigoroso, preciso, no? Su Facebook metto Milano alle 5, ogni giorno vedo le stesse cose. Ma allora, per contrastare questo mio ordine mentale, io attorno a me voglio il casino. Il casino, l'agitazione, scombinare gli schemi. Quindi, vabbè, la Brexit sarà un problema. Viva la Brexit! Ale! Casino, ribaltamento degli schemi, la gioia di vedere tutti questi emotivi che ti dicono che ci sono le cavallette. Oggi ho aperto la porta di casa, ho detto ci saranno le cavallette pronte a mangiarmi. No, non c'erano cavallette. Sono sceso in strada, ho detto ci sarà la prima piaga d'Egitto che è arrivata dall'Egitto. No, niente, non è arrivata. E quindi casino! Basta questi, questo fighettume tutto preciso, tutto che vuole, no, casino, casino, casino. E quindi Ale Donald Trump, che sulla verità è con una corona piena di diademi, mentre sul foglio dipinto, disegnato dal nostro Vincino, al vaso da notte in testa. Allora, è un uomo re o un uomo cesso? Questo vorrei capire. Vincino, io sono fatto così, devo contrastare il mio ordine rigoroso mentale. C'è una cofana in testa, io non lo che tutti i tuoi suoi comizi con ma che si vede bene, basta questi perfettini pettinati con la riga, bene, basta, casino. Sto scherzando, casino, guerra con la Russia. No, no, adesso mi sono lasciato prendere la mano. Ma ho visto stamattina i pezzettini, come lui è molto semplice, no? Proprio come chiacchiera semplice, sì, non è perché non ha idee, non ha grandi idee. No, ma noi per fare il presidente degli Stati Uniti non bisogna avere grandi idee, no. Dai, bisogna come dire, ma adesso. Ti possono solo complicare la testa le grandi idee, no? Ti fanno venire quelle cefalee che dici ho avuto un'idea, no, porca miseria. Mamma mia, infatti, poi noi infatti siamo da mesi con i politici delle mezze riforme, no? Che cosa tutto so complicato, che c'è e non c'è, che leva e non leva, che fa e non fa. No, e quello è molto più semplice. Esatto, la migliore per esempio è questa sulla strategia medio orientale, è bellissima questa. Siccome non ne sa una minchia, allora però ha detto non dico cosa farò perché non si svela ai nemici cosa si fa. Beh, ma è geniale, perché in realtà non sa neanche dov'è la Siria, cioè se gli dici la Siria, la Turchia, no, l'Iraq. Aspetta, era più impressionante quello, il candidato dei Verdi, che non sapeva dov'era Aleppo, cos'era Aleppo. Aleppo. Cioè l'ignoranza americana in politica estera è pazzesca. Eppure. Quando vai in America, vedi i giornali americani, non frega di niente, gli frega solo delle cose di casa loro. Allora, invece voglio, insieme a Vincino, salutare... Veronica. Cara Veronica, adesso mi prende a schiaffi, lo so già. Sciocchina mia, che finalmente capisci qualcuno che parla di politica, perché utilizza un linguaggio a te comprensibile. Eccolo qua. E quindi finalmente hai trovato il tuo premier ideale, no? Eccola lì, premier, va bene. Io non vorrei poi però distruggere tutte le tue aspettative sovversive, no? Trump, insomma, ci fa l'effetto che ci fa, abbiamo scongiurato questo rischio. Pannocchia non è male, come lo chiama Grillo. Pannocchia non è male, Pannocchia è notevole. Infatti finalmente penso che invece di esportare la democrazia nel mondo potranno esportare la tricologia nel mondo, con quel parrucchino si ritrova in testa. Noi ne sappiamo qualcosa qui, insomma, abbiamo avuto Berlusconi però ecco, la migliore devo dire mentre apriamo il Parlamento, devo dire che la migliore forse stavolta è di Maria Elena Boschi, che pare nel Consiglio dei Ministri si sia lasciata dire: ci tocca mo che ci ritroviamo briatore ambasciatore americano in Italia. Ma sarebbe per esempio, non sarebbe stupendo Vincino, non sarebbe meraviglioso avere Flavio Briatore? Vedi, la Boschi ha intuito, ha capito la situazione, ha avuto un'idea. Sono commosso. Saranno mangiati le mani per non averlo fatto ministro Briatore, hanno detto la dovevamo pensarci prima. Vabbè, dai, adesso il mio sovversivismo è finito, adesso mi rimetto il bottoncino della camicia. Non dura chi? No, non dura questo clima così di apparente sovversione, cioè tutte le cose che lui ha detto in campagna elettorale, figuriamoci che fa. Adesso basta, il miglior modo per anestetizzare gli apparenti sovversivi è metterli al governo, finita. Ma infatti non farà nulla, ma è chiaro che no, già il discorso dell'insediamento. Ma è per questo che io dico che tutta la gente che parla delle cavallette mi fa ridere. Ma cosa volete che faccia? La guerra alla Corea del Nord? Ma sarà un po' meno contenta la gente che invece l'ha votato, al di là di tutte le ragioni, il becerume, tutto quello che sappiamo, pensando che davvero segnasse una discontinuità storica. Io ci credo molto relativamente. Perché poi in America, al di là di tutto, non è che arrivi alla presidenza e fai come ti pare. È vero che lui c'ha i repubblicani sia al Senato maschi alla Camera. Sì, ma che, comunque... che gli sono contro molti. Che gli sono... Appunto, perché infatti non l'avrebbero neanche mai voluto come candidato. Allora state... brava, è la... quello che dice Veronica Gentili vuol dire a tutti state sereni. Vincino si può frase, dire però, state... Perché se dici così e porti subito sfiga, no? No, state sereni. Diciamo... Cioè non succederà nulla, non potrà fare nulla, o potrà fare un po' di quello che ha detto, certo, più l'economia, non so, il protezionismo per esempio è la grande minaccia, no la globalizzazione, vuole rimettere i dazi, vuole mettere il protezionismo, queste sono le questioni economiche importanti. Ma ti pare Vincino che possa svegliarsi e sganciare una bomba strade, atomica? Strade, ponti, sì. Queste sì, cose così qua così no. Ha detto, incredibile, così ha detto. Anch'io la prima cosa che ha detto, bisogno a Messina di un bel ponte, no, che ce lo venga a fare, via, così anch'io. Vado veloce a Palermo in treno super veloce, anch'io sono rimasto, colpito. Primo discorso, 45esimo presidente, prima cosa che ha detto, faremo strade, ponti, e saluto tutti i veterani di guerra. Questo ha detto. Solido, tranquillo, non tanto il tetto di cristallo che non si. Ho chiesto tetto di cristallo, io non c'ho un tetto di cristallo. Poche idee, c'hanno un tetto di cristallo, non si capisce queste cose fumose, politicanti, come dire, è no, giusto, perché è anche, giusto scusa, così, è perché l'Obamacare, che è la sanità come da noi, no, è una balla, è che devi farti l'assicurazione obbligatoria, insomma, non è che ci ha fatto l'assicurazione, non ha fatto la sanità come in Italia, lo come dice in Vincino, Francia, in quello Germania, che al primo taglio va in pronto soccorso e vuole essere curato a spese di tutti noi, caraca. Assolutamente. Ovvio in Italia. Ma c'ha ragione su questo. È la settimana del diabete questa. Ecco, è la settimana del diabete, vedi. Lui va. Cioè, già Obama ha cercato di fare l'Obamacare, che era un decimo di quello che si fa da noi, è un altro po' arricchiato il linciaggio. Ma no, cioè, era dare le assicurazioni private, non hai capito? Assicurazioni private che ci guadagnavano, Sì. Sì, era un'assicurazione Allora, private. Era una balla. Il sistema sanitario, vabbè, non ci mettiamo lì. Io quello, no, esatto, sull'Obamacare. Scusa, Johnson ha fatto il Medicare, Johnson, che per tutti i vecchi era l'assicurazione a gratis. Però devo fare questo. Siamo uguale, andati a Lyndon per tutti Johnson. I giovani. E non hanno avuto il coraggio, perché i democratici sono più implicati con le assicurazioni, con le banche, con le cose degli altri. Allora, questo io vorrei dire due cose. La mia antenna che guardo tutte le mattine, cioè Jordan, il mio amico dello Utah che ospita a casa, mi ha scritto su Facebook, è così, giuro, è la prima volta in vita mia che mi vergogno di rappresentare gli Stati Uniti d'America nel mondo. È la prima volta, così dice. Tu non gli hai risposto che avrebbe dovuto cominciare molto prima. No, al contrario, io gli ho detto che non deve vergognarsi neanche questa volta, perché anche questa storia che il popolo puzzone vota, no? Cara Veronica, me l'hai già fatta sta storia sulla Brexit, il popolo schifoso, puzzolente, che mangia le bistecche alte 4 centimetri, fa i rutti, poi vota. È chiaro, ma poi infatti il popolo vota ed è giusto che voti, adesso non vota più secondo quelli che sono stati i sistemi dell'alternanza istituzionale per anni, quindi questo succede e bisogna starci. Più alternanza di questa qual è, scusa? Più alternanza di questa qual è? Non ho capito. La più alternanza di questa è repubblicani democratici. Trump non è un repubblicano ortodosso, Vincino, proprio neanche un po'. Non ma, niente ma, ma, ma i repubblicani ortodossi sono morti. Questi sono i repubblicani normali che ci sono. Dicendo. Normali. Sì, a calori uguali per principio, ma è quello che sto dicendo per io. Principio. Poi devo dire sì, perché mi ha svegliato alle 5. Vincino, Vincino, tutte le volte. Tu non hai capito, cara Veronica. Vincino, da 3 anni, in realtà, quando si sveglia, siccome è arrabbiato perché lo svegliamo, e quindi deve prendere a calci e pugni qualcuno, giusto, cioè chi si trova davanti, che si svegliano di cattivo umore, dicono adesso montato, Veronica, è solo quello, è una questione di rabbia verso la sveglia, non verso l'interlocutore. Non azzardarti a dire qualcosa che penso anch'io, perché sennò non si possono nemmeno menare. Vi ricordo intanto che, come ha detto Barack Obama, ve lo facciamo sentire dalle parole del presidente che ha già invitato Trump nella Casa Bianca, il sole sorgerà anche domani. Infatti have a good night, everybody. And remember, no matter what happens, the sun will rise in the morning and America will still be the greatest nation on earth. Capito? L'America comunque rimarrà la più grande nazione. Comunque una cosa volevo dire, lo sai cosa, il sole si poteva... è sorto il sole, sì, il sole è sorto, no, è sorto. Sta sorgendo, da dove si poteva capire da dove si poteva capire che Trump sta vincendo, quando Obama l'ultima settimana fa ogni giorno un comizio con Hillary. Ma perché? Perché i neri lo odiano, quella là, non vogliono andare a votare mai, e allora lui dice no, è con noi, cioè è disperato perché i sondaggi veri loro ce li hanno, non è che hanno quelli farlocchi che danno ai giornali. Io però una cosa, ecco, a proposito, sui sondaggi voglio chiedere una cosa a Veronica, che oggi si esercita sul Fatto Quotidiano, sui sondaggi, ma prima dei sondaggi, cara Veronica, tu che sei una donna, una donna discretamente piacente, diciamo così. Ma come sei caro? Tu che sei una donna, ecco, anche sta storia che gli americani non hanno voluto una donna, ma come? Guardala qui Melania. Ma che donna? Ma scusa, ma come non hanno voluto una donna? Guardala qua. Adesso Melania Trump, Melania, signori. No, la sta guardando sul Messaggero. E due sciocchini. Non mi ti puoi ingrifare con Melania, stai un attimo buono. Io invece volevo fare subito un'invettiva e scaldarmi come Vincino, per dire che pure questa cosa che noi, le donne, devono votare le donne. Ma perché? Perché gli americani, siccome non hanno votato la Clinton, non volevano una donna? Guarda, non volevano la Clinton. Scusi, non volevano la Clinton. La Clinton. Che c'entra il fatto che è una donna? Mo' per una questione di genere dovevano guarda andare per a esempio le scarpe. E allora Roosevelt l'avrebbero votata. Le scarpe, solo Louboutin. Louboutin, tu quante ne hai di Louboutin di scarpe? Ho la piena, però. Le posso anche adesso. Vai a letto con le Louboutin. Ecco, Melania Trump veste solo, calza, sai Vincino, Louboutin, dai le scarpe, insomma. Non lo far arrabbiare adesso pure con le Louboutin a quest'ora. Scarpe tra le più, come dire, invidiate, anche costose. They are quite expensive. Garanzie di esclusività, tacco 12. Melania, le croc come Bush per ora. C'ha le croc come Bush. No, su questa immagine Vincino che si sta girando in casa appena sveglio con le crocs come Bush. Andiamo al traffico, vi prego. A Milano mi vedo sentire il traffico, dai, sci, dai una botta. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Oh, finalmente anche gli Stati Uniti hanno il loro Berlusconi, così finiranno di prenderci per il culo. Oh Milan, secondo me Trump nel giardino di Michelle ci fa una cacata. Milan, che shock, per molti radical chic acculturati, Robert De Niro, tutte le star, che sembrano soltanto loro acculturate e persone di buon senso, ma la gente si è rotta le balle. Trump significa controllo dell'immigrazione, significa smetterla con le guerre fatte a caso in giro per il mondo, significa difendere il Made in USA, quindi anche il Made in Italy, smetterla con i trattati commerciali che avvantaggiano le multinazionali, tornare ad avere buoni rapporti con la Russia e con Putin. Quindi sostanzialmente il programma della Lega applicato alla più grande democrazia del mondo. Mamma mia, adesso anche questi paraculismi, quello che dice che fa il Vaffa Day, Salvini che dice che Trump applica il programma della Lega, ma come siamo sempre provinciali nel vedere le cose dal nostro piccolo ombelico. Che ne sa Trump della Lega? Ma no, rendetevi conto. Non lo conosce ma Salvini, sì, la famosa foto, certo. Sì, dicendo Salvini chi? Tra l'altro, scusate, era su Twitter, io pensavo rimanesse su Twitter, invece pagina 4 del giornale. Madonna rimane a bocca asciutta, titolo di pagina 4. Signori! Signori, ho detto vabbè, la classica battuta che girava ieri, invece Vincino, vedi, trac, pagina 4, pam, Madonna rimane a bocca asciutta. Oh, mi chiedono se la voce del traffico è di Veronica, adesso va bene tutto, ma no, Mi chiedono, non anche, mi chiedono anche Vincino, ma a che serve Vincino? A nulla, è qua, è sta, nulla. Gira con le Crocs. Ma manco a me, guarda, ti assicuro. Gira con le Crocs, ed è qua, ed è qua. Allora, cara Veronica, te la prendi coi sondaggi, come tutto, in tutto il mondo, non serve. E allora? Purtroppo è così, il sondaggio in questo momento non è più un elemento di valutazione attendibile, proprio perché si è scompaginato tutto. E siccome fino adesso i sondaggisti si sono attenuti all'equilibrio democratici-repubblicani, non essendoci precedenti storici... Si sta già arrabbiando Vincino. Queste però sono scientifiche, bisogna prendere per gli scienziati, non con me. Conoscete? Dai, dillo. Avete conosciuto qualche sondaggista? Come lavora? Ma sono degli imbroglioni, ma prendono mille telefonate, poi interpretano a secondo che l'ultimo editoriale che hanno letto del Fatto, del Corriere, del coso, aggiusta un poco e infrunza. Salutiamo il dottor Pagnoncelli, scientifico serio. Salutiamo il dottor Pagnoncelli, Minchino, salutiamo. Non hanno capito, hanno sbagliato. Salutiamo sempre Ilvo tutto. Diamanti, questi salutiamo qua, tu uno peggio dell'altro, no, guarda. Basta. Io ce n'ho un amico che conosco, mi invitava ai Focus, ci mettevano da 10 persone là e dovevano dire per 3 ore stupidaggi non so quale cosa, no? E poi lui vendeva questo Focus all'azienda dei gelati, un sacco di soldi. Vabbè, dai. Ed era una stupidaggine, ma una serata da amici, imbecille totale, ecco. Veronica, no? Hai capito? I primi sondaggisti di Berlusconi, ha quello distrutto. Con la faccia da marziano. Salutiamo la dottoressa Ghisleri, i primi, quelli del 94-95, ma che chi? Poi si presentarono. I Crespi, chi? No, i Crespi, ma chi se ne frega? Dai, basta. Marziano pelato là, com'era? Era uno. Cioè, Pilo del Polo, che il mese prima faceva un altro lavoro. Basta. Allora, quello che penso è che al di là della poi buona o cattiva fede ci sia comunque un'impossibilità storica in questo momento di fare dei sondaggi attendibili. Non a caso hanno preso tutti una cantonata, eccetto Nate Silver, che è il famoso guru in questo momento che predice in America, perché avendo utilizzato dei sistemi diversi da quelli che utilizzano i sondaggisti istituzionali, aveva predetto che c'era una buona probabilità, soprattutto se gli ispanici non andavano a votare in maniera cospicua, che vincesse Trump. Quindi che il sondaggio oggi, da quando esiste il tripolarismo, è cambiato un po' tutto, abbiano delle difficoltà grosse. Ma è chiaro, ma guarda la Brexit. Qua, questo professore dell'università che tu hai citato, un altro imbroglione totale. Ma chi? Io non l'ho citato, basta, smettila! Mondo che azzecca tutto. Smettila. Sono tutti, guarda, solo gli autori di satira hanno un po' di intuito, siccome loro conoscono e studiano la politica da tanti anni. Solo loro. Che cavolo, un po' prodomo mio. No, guadagniamo qualcosa questa mattinata. Mi sembra giusto. Già ti sei svegliato. I prossimi sondaggi li facciamo fare a Vincino. Esatto. Allora vi beccate. Guarda che io dal referendum del 2000 azzeccato tutto. Tutto. Vi beccate a questo punto. Il clima è giusto per il Brunetta del giorno. Il Brunetta del giorno, eccolo qua. Brunetta ci sposta sulle cose italiane. Io l'altra sera mi son guardato la trasmissione e poi ho fatto i conti, i numeri, 63-64% di tempo a La Boschi e il complemento a 100 a Onida, con 10 interruzioni al professor Onida e solo 2 alla Boschi. È televisione questa? È fare conduzione questa? Io, come dire, adesso farò anche un esposto all'Agicom per quel che serve. L'esposto all'Agicom, Veronica. È sciocchina che tu mi sia moderato, tranne quando vuoi Trump. Però che la puntata dell'altra sera sia stata veramente... Non l'ho vista. Veramente iniqua, per usare un eufemismo. Che è successo? Non si può negare. Che è successo? C'era Onida praticamente imbavagliato in uno scantinato. Ah, ho visto. Io non l'ho vista, ma ho visto che tu twittavi. Ma è quasi venuto un embolo a me, quindi per favore, anzi ero a rischio, serio. Praticamente ha parlato soltanto la Boschi in studio, dettando i tempi, facendo la faccina psicotica, no? Che guardava di qua e di là dalla telecamera della serie. Adesso parlo io, mi viene un coccolone. E Onida non è stato quasi mai interpellato. Povero Onida.